Se sei un'impresa o un libero professionista, hai bisogno della PEC per attivare il tuo domicilio digitale, dove riceverai tutte le comunicazioni della pubblica amministrazione. Scegli la PEC preferita dagli italiani. Attivala facilmente su aruba.it. Mattino. Le 8, 18 minuti e 28 secondi, care ascoltatrici, cari ascoltatori, questa è la terza parte di 24 mattina, lunedì 28 settembre. Al microfono sempre Simone Spezia. Più avanti alle 8.35 parleremo un po' di politica oggi, tenendo sempre sott'occhio anche le questioni economiche e ovviamente la vicenda Tridico, che tanto fa discutere, tanto fa discutere. 349-238-6666 per i vostri WhatsApp audio, per le vostre voci, SMS, messaggi su WhatsApp, tutto quello che volete. E poi ovviamente l'800-24-0024 se vorrete intervenire in diretta. E siamo anche su Facebook in diretta se volete. C'è l'email 24mattino@radio24.it. Come sempre a quest'ora l'appuntamento con Paolo Mieli. Ciao Paolo, buongiorno. Eccomi, buongiorno. E buon inizio di settimana. Ti porterei prima di tutto sulle notizie della notte, quelle che sono arrivate dal New York Times, che ha tirato fuori la bomba a un mesetto circa dal voto negli Stati Uniti, e sono le dichiarazioni dei redditi del presidente americano, Donald Trump. Certo, a un mese dalle elezioni, ma soprattutto a un giorno, perché domani notte c'è il primo confronto televisivo con Biden, e a questo punto sarà divertente. Dunque, cosa viene fuori? Trump, come noto, non aveva mai voluto dare le sue dichiarazioni dei redditi, primo presidente a non voler dare le dichiarazioni dei redditi. Secondo il New York Times, per 10 anni non ha pagato un dollaro, e nel 2016 ha pagato $750. Cioè per tutto l'anno. Attenzione ascoltatori, attenzione ascoltatrici e ascoltatori, abbiamo detto non 750.000, abbiamo detto $750, 750. Ora, Trump ha 24 torri negli Stati Uniti, torri albergo, 8 nel mondo, campi da golf, insomma è uno, e ha pagato $750 di tasse. Questo lui dice, non è vero, tutte notizie date non correttamente, però anche le sue smentite notturne, le troverete poi sui giornali di dopodomani, perché per adesso c'è molto poco sui giornali oggi, è uno scandalo esploso ieri sera tardi negli Stati Uniti, e sai, 750, te quanto paghi i tassi? $750 o più? No, più di 750 dollari. E allora puoi fare presidente degli Stati Uniti, hai più titoli. Ma poi come al solito io mi sono passato la notte a leggermi queste carte del New York Times, sono divertentissime perché vengono fuori il mondo delle detrazioni. Lui, le ampie detrazioni sono $75.000 per le sue acconciature per lo show The Apprentice, cioè lui paga $75.000 e ha messo in conto allo Stato per quei la capelli Ivanka, tra l'altro per quei ha capelli. Messo in conto allo Stato $100.000 per il parrucchiere, che per le sue apparizioni televisive, insomma è una cosa che mescola la denuncia anche al ridicolo. E sì. Tra l'altro stanotte un suo collaboratore, Pietro Pascal, è quello che gli aveva fatto fare una figuraccia in uno show dove non si era presentato nessuno, gli era stato dato un tiro mancino ed era stato licenziato, stanotte ha tentato il suicidio. Quindi alla vigilia di questo confronto televisivo, vi assicuro, chi conosce abbastanza l'inglese se lo gusti, è notturno, però sì. Sarà una cosa molto divertente, sì. Anche perché lui è pirotecnico, Biden è un moscio, c'è da dire questo, però sì. Il confronto fra un pirotecnico in difficoltà e un moscio che magari sarà capace di tirare fuori una battuta. Non ascoltate invece i sondaggi del giorno dopo, perché sempre i sondaggi del giorno dopo fatti da istituti che hanno, insomma, sono generosi con il candidato democratico, insomma, valgono e non valgono. L'altra volta, scusa, non l'altra, altre elezioni presidenziali diedero tutti per ipervincente Hillary Clinton e poi si è visto come è andata. Com'è andata. Allora, seguiamo il filo dei soldi e partiti da quelli di Donald Trump, poi arriveremo a quelli di Pasquale Tridico, ma prima andiamo a quelli vaticani, Paolo, perché anche oggi grandi novità. La novità di oggi è che ha presentato un tipo al fratello che gli avrebbe commissionato, un fratello che faceva tutt'altro, avrebbe dato un sacco di soldi, oltre 1 milione di euro, per produrre della birra artigianale. Anche questo si è passato, si passa a cose che fanno ridere, scusate. Sì, c'è Repubblica, scusami, perché poi non in rassegna non sono riuscito a darla. C'è Repubblica che intervista il fratello dell'alto prelato. Il titolo è "La mia birra con il denaro del petroliere angolano". C'è un giro pazzesco, ma Angelo non c'entra nulla. Sì, esatto, prima racconta delle storie incredibili. Mettiamola di ridere. Il giornale dà uno spunto che ieri c'era anche in un articolo di Massimo Franco, che all'origine delle disgrazie di Becciu ci sarebbe la sua contrapposizione con il cardinale Pell. Ora, a me mi aveva colpito perché Becciu aveva detto: sono stato trattato come un pedofilo. Strana definizione, sono stato trattato come un trafficone. Perché pedofilo? Perché Pell, che era il suo rivale, che era stato incaricato, un cardinale australiano incaricato dal Papa di mettere ordine nei conti del Vaticano. A proposito, anche oggi ci sono grandi annunci: il Papa adesso ha deciso, metterà ordine nei conti del Vaticano, è la terza, quarta volta. Dicevo, Pell fu accusato di aver disturbato dei bambini in passato, processato, destituito, mandato in Australia e poi alla fine assolto. Sì. E in questo caso, e sembra, lui ha sempre pensato che ci fosse lo zampino di Becciu che lo aveva fatto fuori per prendere i poteri che aveva Pell. Adesso Pell è stato il primo a congratularsi col Papa per il coraggio dimostrato. Sembra che tornerà in Italia assolto, adesso ormai Pell non ha più imputazione e avrà un incontro col Papa, chissà che Pell sia rimesso al posto che aveva. Comunque, come capisci bene, un gran pasticcio, un grandissimo pasticcio. Sì. Però ci sono anche i soldi di Tridico. Sì, decisamente. Tra l'altro stamattina i nostri ascoltatori si sono scatenati, Paolo, su questo tema. Sentiamo qualcuno, va. Lo stipendio di Tridico è tornato quello che era del vecchio presidente, e insieme a Tridico ne hanno avuto beneficio un mucchio di altri presidenti. Invece la mia domanda è un'altra: com'è possibile che non sia venuto fuori tutto ciò prima delle elezioni, ma bensì dopo le elezioni? Chi è la manina che ha fornito l'informazione ai giornali, ha fatto uscire fuori questa storia di Tridico, caro Paolo? Questa è l'altra domanda. Sembra, si può capire dai giornali, sembra che sia stato il comitato che doveva stabilire se tutto era in regola e qualcuno l'abbia mandato ai giornali. La Repubblica ha tirato fuori il caso. Non è vero quello che ha detto l'ascoltatore, che era lo stesso stipendio di Boeri. Boeri aveva un compenso che arrivava alle cifre di Tridico, ma compreso il fatto, siccome Boeri abita a Milano e insegna a Milano, allora gli hanno preso un appartamento a Roma e dei viaggi a Roma, e quindi aveva il precedente stipendio, quello di 62.000 euro, più il rimborso, ma quello si fa dappertutto, perché anche Tridico, se un giorno andrà a fare un lavoro in una città diversa da quella in cui è residente, gli pagheranno la casa. Ma vuoi sapere la mia impressione? Tridico quei soldi si riterrà, perché è venuto fuori un dettaglio che non è di poco momento, che la decisione, lo scatto è venuto adesso, ma la decisione fu presa quando c'era ancora il primo governo Conte, e il ministro era Di Maio, fin qui, e però c'era come sottosegretario al ministero un leghista, Durigon, sì. E quindi la Lega non è che può fare molto scalpore su questo caso, perché anche se Durigon oggi intervistato dice no, ma io non ne sapevo nulla, è tutto passato dagli uffici di Di Maio, colpa sua di non sapere nulla. Comunque la cosa divertente oggi c'è la guerra fra il Fatto e il Libero. Il Libero dimostra, tabelle alla mano, che tutti i pentastellati avevano pochi soldi quando sono entrati in Parlamento e si sono arricchiti come matti entrando in Parlamento. Il Fatto pubblica tutti i manager di Stato, compreso Visco, il governatore della Banca d'Italia, che guadagnano più di Tridico. Insomma, per il caso Tridico viene fuori che tutti, non dico si sono arricchiti, ma tutti stanno bene, no? Sì, deputati sì. di 5 Stelle, grandi manager di Stato, e fa un po' sorridere la cosa. Passera, in un'intervista sul Libero, l'ex ministro, l'ex amministratore delegato di Intesa, dà un consiglio, secondo me, saggio, dice: i soldi che verranno dal Recovery Fund, mi raccomando, dateli direttamente alle imprese, non fateli passare da regioni e comuni, perché se passano da regioni e comuni si sa che fine fanno. Nella migliore delle ipotesi finiscono in aiuole, nelle altre finiscono davanti ai tribunali perché sono stati presi. E Conte, visto che stiamo parlando di lui, oggi ha fatto una cosa per cui mi sei venuto in mente tu: ha dato un ultimatum ad Autostrade, cioè ai Benetton, sì. O mi date una risposta in 3 giorni o revoca immediata. Siccome mi sono ricordato che tu a una precedente annuncio di revoca immediata ti eri entusiasmato, entusiasmato, però ho detto arriva, allora l'hanno detto, allora arriva. Sono andato a fare una ricerchina e già 3 giorni dopo il crollo del ponte di Genova Conte annunciò la caducazione, mi colpì la parola, la caducazione, sì, sì. del rapporto con i Benetton, che aveva avviato le pratiche per la caducazione. Allora te lo dico io: avvertimi quando arriva la caducazione, perché sì, secondo sì, me fra un anno siamo ancora qui a parlare degli annunci, attenti sì. che se no sarà revocata la cosa, e tu non ti entusiasmare, smettere di entusiasmarti a tutti gli annunci di Conte. Non più. Quando sarà la caducazione ti chiamerò e ti dirò: Paolo, magno cum gaudio nunzio vobis. caducazione. Grazie. Paolo Mieri, ci sentiamo domani mattina dopo il GR. Ciao, buona giornata. Una pausa, ci ritroviamo tra poco. Sì, è vero, come scrive qualche ascoltatore, che Antonio Mastrapasqua incassava 1.200.000 euro l'anno, però non solo per la presidenza dell'INPS, aveva altri 24 incarichi o 25 incarichi, una cosa di questo genere, partecipava, era membro di una serie di consigli di amministrazione, presidente in una serie di società, e quindi alla fine incassava quella cifra. Buongiorno a Goffredo Bettini, come la definiamo? L'uomo più potente del Partito Democratico. Bettini, buongiorno. Eccoci. Ma no, ma come più potente? Io non ho alcun incarico istituzionale, sono solo membro della direzione del partito, insomma io esprimo le mie idee, poi sì. se le mie idee hanno un peso, questo mi fa piacere. Molto molto ascoltato, potente. Comunque Bettini, lei è molto ascoltato, è stato tra i primi a lanciare e a rafforzare l'idea e a spingere l'idea di questo accordo con il Movimento 5 Stelle per fare un governo. Caro Bettini, adesso si va verso un accordo per le prossime amministrative, quelle delle grandi città, Torino, Milano, Roma, Napoli? Guardi, mentre per le regionali che non avevano il doppio turno era insomma auspicabile che si andasse insieme, che si facesse uno sforzo maggiore tra le forze di governo per andare insieme, sulle città c'è un doppio turno, quindi adesso io penso che si debba seguire con molta attenzione, caso per caso, ascoltando anche le realtà locali, le scelte sul programma, le scelte sulle persone più adatte, quindi penso che sia ancora un processo molto aperto, che non si può incastrare con accordi nazionali. Non si può escludere, in sostanza, però nemmeno si può dire qualcosa adesso, bisogna ancora aspettare, dice lei. Sì, sì, penso che sia saggio aspettare, lavorare sulla coalizione, lavorare sui programmi, lavorare sulla qualità delle proposte che noi dovremmo mettere in campo. In alcune situazioni sarà più facile, in altre alcune candidature già in campo rendono tutto molto più difficile. Su Roma, secondo lei, si può trovare un accordo oppure no? Ma guardi, io su Roma ho già dato tanto nel passato, l'ho detto. Non credo che sia utile io intervenga su una situazione che deve essere oggetto di discussione nel gruppo dirigente del Lazio, romano e nazionale. Dico soltanto, l'ho detto apertamente, che la candidatura già messa in campo di Virginia Raggi da noi non può essere sostenuta in alcun modo. A proposito di questo, perché poi tutto rientra nel giro, Zingaretti entrerà nel governo, deve entrare nel governo secondo lei o no? Guardi, noi chiediamo al governo un rafforzamento politico, nel senso che ho detto più volte, di una maggiore unità, di una maggiore sintonia delle forze che compongono il governo. Fino adesso c'è stata l'emergenza, abbiamo dovuto affrontare insieme, lo abbiamo fatto bene, delle grandi prove, ma adesso si tratta di ricostruire l'Italia e quindi serve un governo che sia più unito, che abbia una visione comune, che proponga una visione comune agli italiani, altrimenti non saremo più, come è stato in questi mesi, un punto di riferimento sicuro. Per quanto riguarda invece i posti, i nomi, chi deve entrare o non entrare, ma questo lo vedrà Conte, ma io credo che già Zingaretti abbia chiarito che da questo punto di vista non ha alcuna intenzione, vuole rimanere segretario del partito, fare questo lavoro con molta dedizione, e poi lui è anche presidente della Regione Lazio, sì. Quindi mi pare che abbia già tanti lavori da svolgere. Da svolgere, dice lei. Senta Bettini, ci sono le premesse per un'alleanza strutturale, cioè nel momento nel quale arriveranno le politiche, arrivare ad un accordo con il Movimento 5 Stelle fisso? Guardi, le rispondo molto, molto nettamente e precisamente. A me dà fastidio quando, non lei, perché lei riporta giustamente delle cose che si dicono nella politica, nel dibattito politico. Ecco, quando mi dicono Bettini vuole l'alleanza strutturale, l'alleanza organica, sono tutti concetti gergali, astratti, che non significano nulla. Io non voglio nessuna alleanza strutturale o organica, perché se avessi dovuto scegliere i miei compagni di strada, probabilmente il Movimento 5 Stelle sarebbe stato per molti aspetti lontano da me. Ma è stata l'emergenza, è stata la realtà, la politica si fa dentro i processi reali che ci ha imposto di verificare in un processo concreto di governo questa alleanza. Allora io dico questo, chiamiamola come ci pare, ma quando delle forze politiche... Posto Bettini, mi scusi, posto Bettini, che in questo momento non si sa con chi trattare del Movimento 5 Stelle, se sì, anche si volesse fare un'alleanza. Io le dico una cosa precisa, quando ci si mette insieme per svolgere un lavoro di governo in questa situazione italiana e tutti dicono che bisogna arrivare fino alla fine della legislatura, perché bisogna spendere bene i soldi che vengono dall'Europa e perché c'è anche l'elezione del Presidente della Repubblica, come la chiama lei questa alleanza? Un'alleanza politica, ecco, direi un'alleanza politica. Quindi noi dobbiamo però questa alleanza politica renderla più intensa, renderla più efficace. Quindi noi abbiamo esattamente il problema contrario. Il problema è che ancora oggi non c'è quell'alleanza politica così chiara, così sentita, così unitaria, capace di renderci fiduciosi per i prossimi mesi. Quindi i passi in avanti devono essere fatti in questa direzione, no? In direzione di marcare le differenze, ma di cercare di costruire invece una consonanza. Certo, il Movimento 5 Stelle vive una fase difficile, quindi noi dobbiamo anche saper rispettare il dibattito di questo partito, perché il Movimento 5 Stelle è un movimento molto composito e noi dobbiamo spingere affinché vada sempre più avanti un'ispirazione di questo partito e di questo movimento di governo. e non di suggestioni antipolitiche. Tra le differenze, lei ha detto è il momento di sottolineare gli elementi di consonanza, però c'è una differenza che lei ha teso a sottolineare negli ultimi giorni di frequente, ed è la distanza che c'è sul tema della giustizia, quantomeno con la sua sensibilità, sì, non quella figlio. Che forse non è di tutto il partito, però... Io sono figlio di un avvocato penalista, sono cresciuto sempre dentro un'atmosfera, dentro una temperie culturale, dove il rispetto delle persone, la pietà verso la condizione umana e soprattutto verso la solitudine che in qualche modo si prova quando si è accusati, imputati e persino poi se condannati, si è reclusi, anche lì c'è una condizione da vedere con molta attenzione. Ecco, io penso che lì ci sia davvero una differenza, almeno per quanto mi riguarda una differenza forte, perché penso che il cosiddetto garantismo, parola un po' così, un po' generica, però sia soprattutto capire che quando si è dentro un processo come imputati c'è una sproporzione di forza, tranne che non sia diciamo dietro all'imputato non ci sia la criminalità organizzata o la mafia, l'imputato è solo, c'è una sproporzione di forza tra chi giudica che ha dietro tutta la forza dello Stato e invece chi è giudicato che è naturalmente in quel momento è più solo, è più fragile, quindi ci vuole le regole, ci vuole il rispetto delle procedure, ma anche una certa pietà umana. Non sarà... Ci vuole verso le vittime e verso però anche chi è imputato e deve difendersi. Non sarà facile incrociare questa sensibilità con quella del Movimento 5 Stelle, comunque ci sarà tempo per discuterne. Senta Bettini, abbiamo parlato del Movimento 5 Stelle, abbiamo parlato della coalizione, abbiamo parlato del futuro di questa ipotetica coalizione, non abbiamo parlato del suo partito, il Partito Democratico. Deve cambiare secondo lei, ora passate le regionali, posto che non è andata, forse non avete vinto, ma non è andata male come vi sareste aspettati, deve cambiare il partito? Guardi, noi abbiamo avuto una vittoria politica e una ottima tenuta elettorale dopo tante traversie. Io vorrei ricordare ai nostri ascoltatori che noi abbiamo avuto due scissioni, abbiamo subito due scissioni, abbiamo fatto un'esperienza di governo in una situazione difficile, insomma c'è stata una tenuta elettorale, un certo incremento elettorale e soprattutto una straordinaria vittoria politica, ma anche perché posso dire una cosa, i nostri avversari sono stati un po' sbruffoni, perché quando si ha l'obiettivo di vincere 7-0 come è stato detto, e poi diciamo tutto ciò che viene di buono diventa una vittoria politica e noi abbiamo avuto una netta vittoria politica. Ecco, che cosa cambiare? Vede, il segretario Zingaretti ha iniziato la sua esperienza con Piazza Grande, che era una manifestazione dove si pensava di un partito molto diverso, un partito più aperto, più democratico, più capace di fare delle correnti, delle aree di pensiero piuttosto che delle catene di comando verticali. Ecco, poi c'è stata l'emergenza, l'esperienza di governo, questo tema l'abbiamo un po' tralasciato e oggi dobbiamo ripartire da lì, perché il radicamento nella società italiana del PD è ancora insufficiente e quando c'è certe volte insomma si fonda diciamo su una funzione diciamo di certe personalità straordinariamente popolari, ma che non possono sopperire la forza di un partito collettivo, di un partito che mette in campo gruppi dirigenti plurali, ma capaci di lavorare insieme e di avere grande qualità, perché scelti per merito e non per fedeltà. Vedremo come andranno le cose. Grazie a Goffredo Bettini intanto per essere stato con noi del Partito Democratico, mettiamo così, del gruppo dirigente del Partito Democratico, d'ora in poi la definiremo così. Grazie Bettini, buona giornata, salve. E saluto Renato Brunetta, deputato, responsabile economico di Forza Italia, che tra l'altro ha lanciato la settimana scorsa una nuova iniziativa editoriale, è il Riformista Economia, esce tutti i lunedì. Brunetta, buongiorno, benvenuto. Buongiorno a voi. Con un, tra l'altro un discreto numero di firme, tra cui oggi il direttore dell'Agenzia delle Entrate Ruffini, cioè il ministro Enzo Amendola, ci vuole rubare il lavoro, Brunetta, cosa fa? Beh, vede, sono iscritto da 45 anni all'ordine dei giornalisti. Quindi penso di essere uno dei più vecchi pubblicista, naturalmente. Sì. Poi ho fatto tutta la mia carriera in università, quindi ho avuto sempre questa passione per il giornalismo, scrivendo. Adesso non dormo la notte perché bisogna anche chiudere, voi sapete cosa vuol dire chiudere un giornale, certo. Chiudere un settimanale vuol dire che poi arriva il momento in cui si dice visto si stampi e si stampa e non c'è più niente da fare. Sì. Ecco, per arrivare a quel momento è un'intensa passione. Sì. Per i pezzi, il controllo, la qualità, revisione, non fare errori nei titoli, sappiamo benissimo. Allora, non dormo la notte, se a qualcuno può fare piacere non dormo la notte, comunque è una bellissima avventura, esperienza. Senta Brunetta, Tridico deve dimettersi secondo lei? Ma vede, io cerco di fare un ragionamento di carattere generale. Non è pensabile che un ente di quella dimensione, quale l'INPS, paghi il proprio presidente 60-65 mila euro. Anche perché la norma sul tetto dei dirigenti generali l'avevo fatta io a suo tempo, ed era legata a 250-245 mila euro. Giusto o sbagliata che fosse, quello comunque era il tetto, con alcune eccezioni. Stare sopra è impossibile perché la legge lo vieta, sì. Stare troppo al di sotto è altrettanto sbagliato, perché vede, pagare troppo poco una responsabilità altissima è un errore come pagare troppo, perché se si paga troppo si va fuori mercato. Se si paga troppo poco si va pure fuori mercato. Sì. Quindi da lavorista qual sono, da economista del lavoro, bisogna pagare in ragione del fatturato, della qualità, della quantità, dell'impegno, ma anche della concorrenza nazionale e internazionale sulle stesse funzioni. E anche, quindi, Brunetta, mi scusi, del livello di responsabilità del quale uno si fa carico, di ciò a cui risponde, no? Nel caso che ci siano errori, problemi e via dicendo. Ma poi non è possibile, al di là delle funzioni, che dentro un ente i propri dirigenti siano pagati due volte o tre volte quello che è pagato il presidente, a meno che non sia un presidente solamente formale e non dotato di deleghe. Quindi secondo me si è fatto un grande pasticcio, prima di tipo populista: tagliamo le remunerazioni, tagliamo gli stipendi, non paghiamo niente nessuno, e questo è populismo becero anticasta, e guarda caso Tridico appartiene proprio a quella componente politica che ne ha fatto una bandiera di questo populismo anticasta, ma antimerito poi alla fine, perché se tu paghi poco hai poco, mi sembra ovvio. Adesso si fa un gran polverone su questo, ma il vero guaio è l'ipocrisia del Movimento 5 Stelle, che da un lato vuole tagliare gli stipendi ai parlamentari, vuole tagliare tutto a tutti perché è la casta, dall'altro però quando si ritrova a fare la casta, e cioè a essere nelle funzioni dirigenziali, si rende conto che è una contraddizione in termini. Non è possibile, lo ripeto, che un presidente, un qualsiasi presidente di un ente, forse il più grande ente finanziario, economico finanziario nel nostro paese, come l'INPS, venga pagato 60 mila euro. E da lì nascono poi i pasticci. Sì. Per questo dico che occorrerebbe una riflessione ferma, pacata su questo, al di là di dimissioni sì, dimissioni no, che mi sembra, come dire, un fatto politico e politicante, ma fare una riflessione una volta per tutti, ma a partire dal Movimento 5 Stelle. Sì. La vogliamo smettere il Movimento 5 Stelle? La vogliamo smettere lei dice, con lei dice, lei dice basta con questa furia iconoclasta nei confronti degli stipendi, perché c'è chi deve essere pagato una certa cifra, è giusto che sia pagato una certa cifra. Anche perché se paghi poco, hai poco. Questo lo sappiamo tutti, lo sanno anche le massaie. Senta Brunetta, il governo ha dichiarato più di una volta la disponibilità a confrontarsi con voi dell'opposizione per discutere su come sfruttare i soldi del Recovery Fund. I segnali che avete ricevuto corrispondono alle dichiarazioni oppure no? Zero. Ad oggi zero su zero. Nel senso che sono mesi che ci si rimpalla disponibilità, apertura, il Presidente della Repubblica ha chiesto al Presidente Conte coesione e condivisione, il centrodestra ha dato disponibilità, io personalmente ho dato totale disponibilità, addirittura con un mio editoriale per quel che vale, la scorsa settimana proprio sul Riformista ho detto ci siamo anche con questo settimanale per aprire un dibattito, un laboratorio insieme di riflessione. Ad oggi nessuna risposta. E la ragione presto detta non è tanto, come dire, malagrazia del Presidente Conte, è che ha talmente tanti problemi all'interno della sua maggioranza, all'interno del governo, che probabilmente non ha la forza, il tempo di dialogare con l'esterno. Perché vede sul MES, ad esempio, cosa che voi conoscete benissimo, sì, l'avete trattata, la trattano tutti, oggi la tratta una bellissima intervista al governatore della Banca d'Italia. E sul MES il governo non ha una maggioranza, è presto detto. E allora come fa Conte a dialogare all'esterno sul MES, dove anche nel centrodestra esistono posizioni diversificate, se non ha la maggioranza lui per primo all'interno del suo governo? Sì. Diciamo, che se fosse, diciamo che se fosse al governo voi, Brunetta, probabilmente avreste lo stesso problema in, no, in proporzioni diverse, presumibilmente. Però vedi, in questo momento, certo, però in questo momento, se faccio un esempio, Conte aprisse a quella parte del centrodestra che è a favore del MES e andasse in Parlamento e i 5 Stelle votassero sì, e Forza Italia ed altri votassero no al MES, e Forza Italia e gli altri votassero sì, la Lega votasse no, oppure quello che deciderà, non ci sarebbe più il governo. Sì, non ci sarebbe, non ci sarebbe maggioranza comunque, quantomeno o ci sarebbe una maggioranza diversa. Siccome Conte non vuole questo, butta la palla in tribuna e ne parleremo, però non c'è più tempo da perdere, perché o si chiede, lo dice anche mi pare Franceschini oggi, o si chiede boccia, o si chiede subito, o si chiede entro l'anno, oppure si perde questa enorme, sono 37 miliardi, questa grande occasione per rafforzare direttamente o indirettamente il sistema sanitario italiano. Brunetta, abbiamo ancora 30 secondi, mi faccio andare sul centrodestra, Salvini si deve far da parte secondo lei? Ma vede, quello che serve al centrodestra sono delle regole del gioco della coalizione. Il centrodestra è maggioritario nel paese, il centrodestra in tutte le elezioni vince quando è plurale, quando mostra la faccia feroce, quando mostra la faccia populista, estremista, perde. Allora come bisogna fare? Semplice, come faceva Berlusconi quando era Forza Italia alla leadership del centrodestra, e cioè dare la parola a tutti, avere un centrodestra plurale, avere un programma europeo, liberale. Noi abbiamo votato la von der Leyen, la Lega no. Come si può pensare in questo momento da parte della Lega di essere all'opposizione in Europa, all'opposizione della von der Leyen, quando dobbiamo dialogare sui 300 miliardi di euro che l'Europa ci darà? Come è possibile? Quindi Salvini, ma tutti i leader del centrodestra devono fare una riflessione sulle regole del gioco. Vale per Salvini, vale per Meloni. Dice più quello che la leader, che la leadership in sé, insomma, dice Renato Brunetta. Dobbiamo veramente chiudere, la ringrazio. Grazie Renato Brunetta per essere stato con noi di Forza Italia. Noi ci risentiamo domani mattina alle 6:30. Ora è ora di avere un sito internet.